gente che il disco e il vino e il fama, le tutta gente dell'ospedale. Io ne ho bevuto tanto e non m'ha fatto male, ella quasi che fa male, il vino fa cantare. Vaga ben che la vaga mal, siamo il fior della gioventù. Pensiamo maga bevi, pensiamo maga bevi. Uè che la vaga ben che la vaga mal, siamo il fior della gioventù. Pensiamo maga bevi, bevi anche tu. Bomba e ribomba, si è l'ora di cambiar vela. L'amor è sempre quella, l'amor è sempre quella. Bomba e ribomba, si è l'ora di cambiar vela. L'amor è sempre quella, e sempre lo sarà. Acciaio e il Barbera si salvò. Barbera, Barbera, siamo tutti figli tuoi, e se non sarà stasera, sarà poi quando vuoi. E se non sarà stasera, sarà per quando vuoi. Piazza baracca che la mangiava il fer, quanto una vacca che passa via il dottor dell'ospedale, e il cardina la cura del jazz artificial. Alle belle, alle buone, le san come il curam. Viva la macchina, viva la macchina. Alle belle, alle buone, le san come il curam. Viva la macchina del jazz artificial. Alle belle, alle buone, le san come il curam. Viva la macchina, viva la macchina, alle belle, alle buone, le san come il curam. Viva la macchina del jazz artificial. Viva la macchina del jazz artificial.